qui nel villaggio sono nato. E non mi ricordo bene se c'è stato almeno un giorno in cui mi sono allontanato. Qui c'è rimasta poca gente di cui non mi importa niente. Son partiti per lavoro tutti gli amici, son qui da solo. Solo non so cosa fare, bevo, non smetto più, mi chiudo nella mia emarginazione, la faccia voltata di là, ma non capite, non sono per troppe ore. Non mi si venga a raccontare che è una vita salutare, che il ritorno alla natura, qui c'è morte, c'è paura.